GR Europa. C'è appena il 10% di donne nei CDA delle società quotate nei 27 paesi dell'Unione, mentre il 97,6% dei CEO è uomo. Sono i dati di uno studio diffuso dalla Commissione UE in cui si rileva che i motori del cambiamento sono i paesi con quote rosa imposte per legge. Il caso Italia viene portato ad esempio osservando che dopo l'approvazione della legge del luglio 2011 la presenza di donne nei board è quasi raddoppiata in 12 mesi, dal 5-6% dell'ottobre 2011 all'11% dell'ottobre 2012. La crisi economica ha inciso profondamente anche sulla parità di genere e i diritti delle donne. Ormai è provato dalle numerose ricerche europee promosse proprio intorno alla data di questo 8 marzo. Le donne hanno perso più posti di lavoro, sono spesso state costrette a supplire alle carenze di servizi dovute ai tagli alla spesa pubblica di molti paesi. Come recuperare terreno? La nostra Laura Bettini l'ho chiesto a Patrizia Toia, europarlamentare. Sentiamo. Ne sono venute tre, che innanzitutto sostenere quelle proposte che per esempio aiutano le donne a fare piccole imprese, oggi per scelta o per disperazione, diciamo così, nel senso che non c'è altra possibilità, molte donne si improvvisano piccole imprenditrici, magari di società di servizi. Si fece in anni passati una legge per l'imprenditoria femminile a livello nazionale, purtroppo queste leggi in questi anni sono state definanziate. E quel poco che è rimasto spesso viene attribuito alle bandi in generale per tutte le nuove imprese, non si tiene conto della peculiarità femminile. Seconda idea che è venuta, ritornare a chiedere ai comuni, alle regioni, agli stati di favorire anche micronidi, nidi aziendali, insomma tutti quei servizi per la prima infanzia, senza i quali una donna non può lavorare. Purtroppo si tratta di punti sui quali discutiamo da molto tempo. Guardi, sicuramente l'Europa è per le donne. Se gli stati membri fossero un po' più attenti a far entrare le idee dell'Europa e le linee e a volte anche le direttive europee nella loro vita nazionale, ecco, anche i paesi che oggi hanno una condizione della donna meno vantaggiosa rispetto a quelle del nord Europa sarebbero migliori. L'Europa deve fare azioni anche più forti, non solo limitarsi a delle indicazioni, ma usare la strada della direttiva, cioè della legge europea che poi deve diventare per forza legge nazionale. Lo ricordo, era Patrizia Toia, europarlamentare, al microfono di Laura Bettini. Infine, non riciclare i rifiuti equivale a gettarli via invece di produrre ricchezza. L'Unione Europea sta cercando di andare nella direzione del riuso, del riciclo delle materie prime e se spingerà in questa direzione, gli altri paesi non potranno fare a meno di seguirne l'esempio. Ne è convinto Jeremy Irons, attore britannico, che a Bruxelles stamane ha presentato il suo documentario Trashed, dunque un problema globale che sbarca anche al cinema. E con questa notizia abbiamo chiuso il nostro appuntamento e la nostra settimana. Roberto Scaltritti in regia, Gigi Donelli al microfono. GR Europa torna lunedì poco dopo le 15, ma continua come sempre su radio24.it. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.